24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani, cioè. L'ha capita? No, farò un master in bersanese. Cari italiani, sono sempre di più i protagonisti odierni della politica. Perché la novità è questa, leggendo i giornali di oggi. Fuori Bersani, dentro Matteo Renzi. Pare che prenda quota questa idea. Matteo Renzi, presidente del Consiglio. Chissà. Intanto buongiorno e benvenuto a tutti e benvenuti. Siamo qui a 24 mattino con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia e il Parlamento che si può aprire. Apriamo la serranda, come sempre. Ma non cambia niente, Nicole Minetti. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ci offre il caffè. E quindi. Forza, gente. E quindi. Questa è la novità. Novità abbastanza clamorosa. Santa Claus, li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto allora, da tornare storto come il dottor Arno. Prende quota quest'idea. Matteo Renzi, Premier, chi lo sa, è fantapolitica, non si sa. Ma vedremo tra 48 ore, perché saranno consultazioni lampo quelle di Napolitano tra oggi, forse domani già l'incarico. Le ipotesi sono Giuliano Amato, quelle che sono più gettonate, oppure Matteo Renzi. Intanto voglio salutare, ritornano con noi anche questo martedì Alessandro Giglioli, buongiorno. Piovono rane, buongiorno a tutti. Da una Roma piovosissima, sarà il caso, appunto, chissà perché. Oggi abbiamo tra l'altro un Amateide da farvi ascoltare. Amateide, due o tre file di Giuliano Amato, mica male. Poi torna con noi il grandissimo Alberto Forchielli, chiamato. Salve, buongiorno. Presidente dell'Osservatorio Asia, dove la troviamo, Forchielli? Sono a Monaco di Baviera. Ah, Monaco, ogni tanto fa delle puntatine anche a Monaco di Baviera. Cosa dicono lì allora i tedeschi? Ha capito cosa dicono di quello che... No, ci hanno dato su. Cioè, pensano che il paese sia... Sia che? Giù per le scale di cantina. Cioè, non contano più sull'Italia. Ah, non contano più. Se adesso gli diciamo che usciamo dall'euro, sono quasi un sollievo. Non vedono l'ora. Ieri è successo questo, insomma, Giorgio Napolitano ha parlato, l'avete sentito, immagino, anche a Monaco è arrivata l'eco delle parole di Napolitano. Sì, Forchielli. Dove? No. Ma siamo noi che pensiamo di essere al centro del mondo. Vabbè, ho capito. Ma non ci danno dei trafiletti, capito? Pure si è fatto vedere in televisione Napolitano. Dai, Alino, ma dove vivi? In Italia. Dove vieni? Ma neanche un pezzettino alla fine del telegiornale. Ma cosa pensi? Che dire in diretta discorsi Napolitano? No, in diretta no. Ma adesso, neanche noi diamo in diretta il presidente tedesco. Ma ci guardano disperati, gli fanno le robe, capito? Cioè, tutto un paese attaccato a un anziano signore di 87 anni, capito? Quasi 88, quasi 88. No, facciamo ridere. Sì, non lui. No, per carità. No, ma lui noi no. Facciamo ridere, capito? Sì. Giglioli, il tema un pochino è questo. Io lo dico da 2-3 giorni, cioè essere arrivati a chiedere a un uomo di quasi 88 anni, per favore, rimani come unica ancora di salvezza, è l'emblema di un paese discretamente finito. O esagero io, Alessandro? No, intanto devo dire che c'ha ragione Forchielli, che gira al mondo, beato lui. Cioè, ogni volta che sei all'estero ti rendi conto delle rilevanze del nostro paese, che è sempre maggiore. Fra l'altro io ricordo quando nacque l'ultimo governo Berlusconi, che mi trovavo per mia fortuna in una zona tropicale, e la notizia della nascita del governo Berlusconi era una colonna sotto quattro colonne in cui raccontavano la cronaca di un uomo arrestato per furto di noci di cocco. Quindi questa è più o meno la nostra rilevanza nel mondo. All'estero lo sappiamo, chi viaggia lo sa, all'estero si parla dell'Italia fondamentalmente per due motivi e mezzo. Il primo motivo è il Papa, il secondo motivo è la mafia e il mezzo sono le donne di Berlusconi. Berlusconi o Bungasconi, come lo chiama Forchielli. Poi Napolitano, sì, io invece l'ho seguito perché è il mio mestiere. Eh beh, certo, non ci mancherebbe. L'ho seguito su internet, l'ho seguito tutto, ho letto anche il discorso integrale. Bello, bravo, gliel'ha scritto bene. Qualcuno gli ha messo in bocca anche tre parole sulla rete, povero Napolitano. Che vuoi che ti dica? Io non ce l'ho con Napolitano comunque. Sì. Ma con quelli che applaudivano. E poraccio, lui è lì a mettere le pezze ai buchi che ha fatto gli altri. Quindi appunto, sì, la scena era bellissima. Cioè, Forchielli, vabbè, ma l'avrà vista almeno, cioè, ha saputo su internet, si sarà informato. Cioè, la scena era questa: Napolitano che diceva: sordi, inutili, non avete fatto niente, quelli bravo! Esatto. Disgraziati, bravo! Cioè, questa praticamente era la scena Sadomaso, incredibile. Alino, il mondo si divide in due. Ci sono quelli del PD e quelli del Movimento 5 Stelle che sono tutti felici perché mantengono la poltrona e pensano che non si vada alle elezioni e quindi rimangono lì. Poltronai di merda. Poi invece ci sono tutti quelli di Berlusconi che pensano di vincere le prossime elezioni. Capito? Perché Berlusconi effettivamente l'ha giocata benissimo sta partita. È tornato a chiamarlo Berlusconi. Ma ormai, capito, gli faccio dei post a Bunga che ormai ho paura. Poi tu mi hai corretto una volta. Cioè? Abbiamo avuto un duetto, io dicevo Bungascone, tu dicevi Berlusconi. Infatti. Io dico chissà te che poi dopo ti fanno un problema in trasmissione. Ma qui non siamo in trasmissione, siamo al Parlamento, si può dire quello che si vuole. Io ho coniato Bungascone che poi dopo è stato ripreso nei cartoni in America. Capito? Il dramma è il vero dramma qui, che non abbiamo capito, è che il Berlusconi decide tra un po' di andare alle elezioni quando gli conviene e vince. Fa fuori tutto, vince e diventa Presidente della Repubblica. Questo era uno scenario che mi raccontava anche ieri una redattrice della Zanzara, Laura Marchesi. È la stessa cosa che ha pensato. Comunque oggi Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano dice il discorso di Napolitano di ieri ricordava il film Sogni d'oro di Nanni Moretti. Quando Nanni Moretti, sentite, la scena è questa. Pubblico di merda. Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Più o meno era questa Giglioli, cioè che gli diceva farabutti, sordi, non avete fatto nulla, no, bravo! Cioè, è una roba incredibile, cioè, no? Vedi, questo Parlamento PD in testa ha acquisito la consapevolezza della propria incompiutezza, della propria insensatezza, no? Dell'essere lì senza essere stati capaci di fare niente. Gli applausi erano come chiedergli scusa, come dire scusaci se sappiamo, te avevi già fatto gli scatoloni, eri già pronto per farmatene in via dei serpenti tranquillo e ti abbiamo tenuto fissato lì. E quindi gli ha chiesto scusa, come dire siamo degli incapaci, una missione di incapacità che forse non ha precedenti nella storia. Ognuno ha cercato di ringraziarlo per i suoi interessi personali, no? Berlusconi ha detto grazie che mi hai evitato Prodi e Rodotà, e Bersani gli ha detto grazie che mi hai evitato di distruggere definitivamente un partito che pure avevo quasi distrutto, e Monti gli ha detto grazie che mi hai evitato di andare al voto dove se vado al voto prendo il 2%. Cioè sta dipingendo come dire che tutti, no, come dice Forchielli, cioè, ognuno ha voluto ringraziarlo. Ha salvato il culo a tutti. Ha salvato il culo. Esatto. No, ma non il culo, il posto. Il posto. Beh, che poi è la stessa cosa, no? Il posto. Ma perché Giulioli la mette in modo, capito, quasi eroico, capito? No, ma quelli pensano allo stipendio. Quelli fanno i conti dello stipendio, capito? Da parlamentare. Non è che ci sono discorsi ideali, ha salvato la democrazia, ha salvato un cazzo. capito? Ha salvato quello, lo stipendio, ha salvato lo il culo nel senso di, posto, di poltrona, certo. Di poltrona. Vabbè, sì. Ma in tutto questo, adesso bisogna vedere che governo fare. Sentiamo un pezzo di Napolitano 1, quello degli sforzi vanificati dalla politica, no, per dire che lui li strigliava e quelli li applaudivano. Questo era. Mi fermo qui perché su quei temi specifici ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità. E lo applaudono, e lo applaudono. Cioè gli sta dicendo, Forchiella gli sta dicendo che ci ha messo tutto, sforzi vanificati e mi avete chiamato, bravo! Ma cosa vuol dire? Alino, io non lo so. Alino, io vengo dalla terra di fatti non pugnette, capito? Questi qui sono discorsi che non contano niente, capito? Ma è come fa la romanzina a un figlio che ha preso 2 a scuola, capito? L'ha già preso, è già stato perdonato, gli ha regalato l'iPhone, poi gli fa la romanzina. Ma che tu gliele sbatti i coglioni, certo papà, certo mamma, capito? Sì, dice ma certo. Ma ancora stiamo dietro ai discorsi. Che dobbiamo fare? Dai, cambia. Anzi, sai cosa? Adesso scrivo una lettera al sole per lamentarmi della tua trasmissione. Una lettera al sole mi fa cacciare. No, stai diventando. Capito? Ma cosa devo, di cosa devo parlare? Banale, eh? Ma di cosa devo parlare? Perché applaudivano al discorso. Ma cosa si applaudisce? Ho capito di cosa dobbiamo parlare. Che bel discorso che ha fatto! Oh, mamma mia, adesso Forchielli adesso mi manda una lettera al sole e mi fa cacciare. Scrivo Squinzi. Va bene, scriva Squinzi. Se ci fa cacciare, noi ci telefoniamo la mattina e facciamo alle 6:30 ci chiamiamo. Dici, come va oggi? Ti fa svegliare qui e poi tutto un buonismo. Ma se mi accusano di essere un sovversivo da 3 giorni, mi hanno accusato di essere un grillino, ecco Forchielli, anche quello. Sei un cioccapiatti. Cos'è un cioccapiatti? Cos'è il cioccapiatti? È lunga. Non è un complimento, questo l'ho capito benissimo. Va bene, scriva Squinzi cos'è un cioccapiatti, così mi caccia, cacciato il cioccapiatti da Radio 24. Allora, pensiamo al domani. Allora, faccio questa domanda prima del traffico. Amato o Renzi premier? Forchielli, chi dobbiamo mettere premier adesso? Cioè, chi deve mettere? Guardi, io Renzi non mi convince fino in fondo, ossia Renzi va bene per le elezioni, va bene perché è una faccia nuova, rispetto allo smacchiatore di giaguari è difficile far peggio, però Palazzo Chigi è un lavoro serio, Palazzo Chigi l'ho visto, ci sono stato tante volte, è un lavoro maledetto e devi sapere un sacco di robe. Non c'è match tra la competenza di Amato e la competenza di Renzi, capito? Non è nulla contro Renzi, ma Amato parliamo di una delle persone più competenti, più raffinate che esistono nel nostro sistema. Io lavorai per anni con Andreatta, che era uno molto esigente intellettualmente. Amato era uno dei pochi di cui Andreatta avesse soggezione, al di là dei veti, delle politiche. Non c'è partita, io privilegio la professionalità in un momento così difficile per l'Italia. La gente non vuole discorsi, la gente vuole soluzioni, capito? La gente si è anche rotto i coglioni di Grillo con tutte le sue cagate, capito? La gente vuole roba seria a livello nazionale, a livello internazionale. Io non credo che Renzi, seppur simpatico, seppur accattivante, abbia quel bagaglio di professionalità, di esperienza di cui questo paese ha bisogno. Quindi voglio dire, messa così come primo giudizio non c'è partita. No, si fermi qui che andiamo al traffico. La segreteria telefonica, tra l'altro c'è un messaggio di uno che tira in ballo anche Forchinotti, che ti dice qualcosa in bolognese, poi Forchielli ce lo traduce. E poi rientriamo da Alessandro Giglioli. Insomma, Renzi o Amato, queste sono le due persone al momento più gettonate come possibili premier. 24 mattino. Sento l'amico Galan che si diverte a commentare la situazione del PD. Decisamente il PDL sembra più compatto, ma perché c'è un unico culo da leccare. Buongiorno a tutti. politici di merda. Io lavoro dalla mattina alla sera 13-14 ore per pagare voi che andate a sputtanarvi i soldi di noi cittadini. Io ho una famiglia, un bambino di 2 anni e non ho i soldi per pagargli i pannolini, fate cagare. Potevamo ribaltare il mondo, abbiamo avuto l'occasione di ribaltare il mondo, invece mi si ribalta lo stomaco dallo schifo. Qui bisogna dire come Gesù Cristo, che sono dei spelonchi di ladroni, sono delle progenie di vipri, sono dei sepolcri imbiancati, perciò riceveranno il giudizio. Che bella soddisfazione, italiani, siamo un popolo finito! Beh, a questo punto mettiamo Filippotti, non sparisce mai come premier, perché no? Allora respira, Alessandro. Allora respira e so contento e felice. Stavolta avremo già fatto 3 piccioni con una fava. Prodi, Bersani, Labindi. Giornata storica. Sono proprio contenta. Ciao! Alessandro, forse ho capito male. Non doveva essere Bersani a smacchiare il giaguaro? Guarda, stamattina quando sono venuta a imparare che è lì per dimettersi, si dimette, mica si dimette, insomma che è lì che ci sta pensando su. Poverone, è una brava persona sicuramente, ma è talmente comunista, talmente di partito, che ti dico stamattina non sghignazzava anche al Busdagnec. Poi chiedi casomai a Porchielli cosa vuol dire. Ciao Milan, ti volevo dire che io sto spolverando i miei 3 Matterelli che se mettono Amato al governo... Arrivo, avvisatelo. Dobbiamo avvisare Amato, Alessandro Giglioli, che sta arrivando la signora dei Matterelli. Ho scoperto, Giglioli, il Busdagnec in realtà l'ho capito anch'io, Forchielli, cos'è? Mi sembra di capire a cosa alludesse. Cioccapiatti, Giglioli, sai cos'è il cioccapiatti? Colui che dice non no. Fa il tirapacchi. Chi non riesce ad agire senza portarsi dietro un'inevitabile scia di disastrose conseguenze. Questo sono per... Ma tipo ingroia, per sì. Capire. No, come... Comunque... Io non. Come ingroia di... cioccapiatti subito. Vabbè. Comunque, visto che parlavamo, posso, sono io il primo sì, mio? Sì, sì. No, perché io sono mica d'accordo con Forchielli questa volta. Perché. Meno male. Vabbè, a parte cantagliele che su. Cantagliele su. Fra Matteo e Renzi, non so come. Come scegliere fra andare a fare la coloscopia o può portarti via l'estrazione del dente. Cioè, questa è l'opzione che abbiamo davanti. Però. Qui Forchielli, ahimè, con tutta la sua simpatia emiliana, palese di essere parte del, scusa, Forchielli, ti caccia, sì. Parte dell'establishment economico-finanziario, perché Amato non lo vogliamo vedere neanche in faccia. Amato è il vice ladrone di Craxi, come dice lo stesso Bobo, Amato è quello che ha fatto il raid notturno sulle pensioni. Amato è l'espressione proprio più plastica dell'establishment che si chiude in se stesso. Potrà essere competente finché vuole, ma è totalmente espressione dell'arroccamento, dell'arrocco dell'establishment politico. Sai cos'è? Hai ragione, Giglioli. Sai cos'è? Che non è vero, hai ragione. È che quel cioccapiatti di Alino abbia fatto scegliere tra due. Secondo. Ma sono i nomi secondo, che più circolano. Giglioli, secondo, io Amato non l'ho mai conosciuto personalmente, non ho niente col suo giro, lui ha fatto un giro particolare che tu sai benissimo, io non ho niente a che fare con il suo giro. Detto questo, capito, Se le alternative sono quelle. Ma Renzi è un ballon d'essai che hanno tirato su ieri, non credo che. Cioè, Forchielli dice tra la colonscopia e il dente del giudizio, preferisco togliere un dente del giudizio, cioè Giuliano Amato. Se proprio devo scegliere tra i due, ma è stato quel cioccapiatti che sono io. Quindi, vabbè, allora sentiamo questa di Amato, la famosa sulla questione della pensione, quando da Lilli Gruber, insomma, sapete la questione, quanto guadagna Amato? Giuliano Amato, quanto guadagna? E sentite come finisce? Io ho una pensione che al netto è di 11.000 erotti euro, ai quali si somma la indennità parlamentare che al netto sarà sui 5.000 e qualcosa. Lei è disposto a ridursela la pensione, ecco, a fare qualche sacrificio? Quando mi viene detto sei disposto a ridursela, a ridurmela, non capisco la domanda. Cioè, non Forchielli, se uno dice non capisco la domanda, cioè, ma mettiamo presidente del consiglio uno che di questi tempi dice non capisco la domanda se mi dicono di ridurmi la pensione. Ma no, ma guardi che Amato non sarebbe il mio candidato. Il vero problema, sa cos'è? Che noi continuiamo a dire ci vogliono i giovani. Cazzo, ma sti giovani sono sempre peggio dei vecchi, capito? Cioè, sono 30 anni che noi diciamo ci vogliono i giovani, ci vogliono i giovani, capito? Continuiamo a rotolaggio per le scaldicantine, perché i giovani sono molto peggio dei vecchi. Questi con giovani. Tutte le riserve su Amato, perché io non è stato socialista, capito? E purtroppo, capito? Continuiamo a dire ci vuole una grande personalità, ma dove sono queste personalità, capito? Non ne ma vede, dove sono queste personalità? Non Renzi, comunque, non Renzi, dice. Renzi no. No, va bene, Renzi va bene, ma non è adatto. Cioè, ho paura che non riesca a lavorare, perché una cosa è fare i proclami, l'altra cosa è star seduto lì a Palazzo Chigi con i problemi che arrivano ogni 5 minuti, ma poi sono problemi seri. Arrivano giù i sindaci, gli ospedali senza soldi, capito? Problemi di sicurezza. Cioè, voglio dire, è un lavoro che richiede un po' di esperienza, non belle frasi, tutto lì. No, ma questo Renzi certo. Ancora appartiene ancora alla sfera dei bambocci. È un po' un bamboccio, Giglioli, affidare il paese a Renzi è un po' troppo, per forse. Solo che le alternative sono queste. Secondo me, intanto scusa, ma io questa roba, questo dualismo vecchi giovani, lo trovo un filo superato anche dalle cose. Abbiamo visto che quanti giovani si sono mobilitati per Rodotà, che c'ha 80 anni. Si può essere vecchi, si può essere giovani, quello che conta è quello che si sa fare. Io ho le idee che si hanno, la visione che si ha del mondo, dei diritti, non lo so, mi sembra un po' superata sta roba. È colpa anche di Renzi, che ha impostato la sua ascesa politica sul giovanilismo, e l'ha fatto bene dal punto di vista personale, perché ha rappresentato una generazione che di fatto era esclusa. Cioè, non dimentichiamoci che quelli, per capirci, che hanno fatto il 68, cioè la gente che oggi ha 60-70 anni, si è conquistato il potere a 30 anni e non l'ha più mollato a destra e a sinistra. No, lo stesso Napolitano, che non ha fatto il 68, è arrivato prima. A 28 anni era in Parlamento. A 28 anni era in Parlamento. Quando era in Parlamento da 28 anni. Sì, lui l'ha detto commuovendosi, ma era abbastanza impressionante. È 28 anni. Nessuno di noi era nato, credo. No, effettivamente sì. Mi devo fermare. Forchielli, vi faccio sapere cosa risponde Squinzi, se scrive la lettera. Vorrei saperlo, insomma, giusto così. Sono anche attaccato un po' il culo alla poltrona come Napolitano che parlava quelli lì. Grazie, ci fermiamo qui. Il bar socchiude, poi la segna stampa dopo il GR delle 7. Pubblico di merda. Pubblico di merda. Pubblico di merda. Pubblico di merda. Pubblico di merda. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Allora siamo qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati o ben svegliati dal vostro cioccapiatti di fiducia. Poi vi spiegherà Alberto Forchielli che cos'è, se eravate distratti o non eravate svegli alle 7:30, andatevi ad ascoltare il podcast, se no io sarò un cioccapiatti, ma voi dei debosciati come al solito che vi svegliate a quest'ora. E allora oggi parleremo di politica, ovviamente, momenti decisivi per le consultazioni oggi, forse la formazione, l'incarico, meglio, del governo affidato già domani. I nomi che circolano di più sono un'ipotesi consolidata, Giuliano Amato da giorni, ma nella notte, nella serata di ieri e sui giornali di oggi si affaccia una clamorosa possibilità, e cioè Matteo Renzi premier. ieri lui in TV smentiva, ma oggi sui giornali già ci sono dei retroscena al riguardo. Sarà decisiva la direzione del Partito Democratico oggi pomeriggio alle 17. Ma andiamo a sfogliare i giornali in edicola. È martedì 23 aprile, allora i titoli quasi tutti declinati sull'attualità politica dopo il discorso del neo presidente e vecchio e neo presidente Giorgio Napolitano, ieri insediatosi con il giuramento al Parlamento. Ora i partiti siano responsabili, questo è il virgolettato delle parole del Capo dello Stato, che è il titolo della prima pagina del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, partiti sordi, lo schiaffo del presidente, Repubblica, Napolitano, processo ai partiti. La Stampa, Napolitano, ultimatum ai partiti. Il Libero lo dipinge come un domatore di leoni, il titolo è proprio il domatore, solo che doma chi? Renzi, D'Alema, Bersani, Rosi Bindi. Il domatore è Napolitano. La frustata di Napolitano anche per l'Unità, che quindi gioca sull'idea del domatore anche se in maniera più seria. Il Fatto Quotidiano, inciucio o vado via, Berlusconi, viva Napolitano. Questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero, Napolitano striglia i partiti. Il Giornale, governo già fatto, amato, favorito come premier, ma Renzi cresce. Il Secolo XIX, partiti sordi e sterili, sono le parole di Napolitano. Avvenire, Napolitano ai partiti, adesso basta, sordità, mentre il Manifesto mette la foto di Napolitano a caratteri cubitali, la parola diktat. Di fronte alle camere, Napolitano rovescia molte critiche sui partiti inconcludenti e non fa nessuna autocritica. E allora parleremo, dopo la pubblicità ci tufferemo appunto in questa vicenda politica molto contorta. Prima però voglio partire dal Sole 24 Ore, perché c'è un'inchiesta firma Claudio Gatti che riguarda il ministro all'economia Vittorio Grilli. Il tema è il ministro Grilli e la casa. Sapete che è un tema di cui già si sono occupate le cronache, l'acquisto di una casa a Roma, e perché in questa inchiesta che inizia in prima pagina, Grilli e il labirinto delle spese per la casa, ci sono tanti elementi che faranno certamente discutere. Claudio Gatti, appunto, è l'autore di questa inchiesta. E scrive: almeno fin quando era ragioniere dello Stato, l'attuale ministro all'economia Vittorio Grilli ha avuto svariati conti all'estero. Non ci riferiamo ai due conti che aveva a Londra, cointestati con la moglie di allora. Parliamo piuttosto di cinque conti di cui era titolare nelle cosiddette isole del canale, e cioè località che il governo italiano considera paradisi fiscali. Conti in sterline, dollari ed euro. Da uno di questi conti risulta al Sole 24 Ore che sia provenuta una parte del denaro pagato per l'acquisto del lussuosissimo appartamento che l'attuale ministra ha comprato nel 2004 in via San Valentino a Roma. Erano tutti conti in chiaro, dichiarati, su cui ho pagato tutte le tasse, ci spiega il ministro, che aggiunge: lavoravo per una banca svizzera, era una prassi normalissima e, cosa discriminante, i conti erano totalmente trasparenti al fisco. Insomma, il professor Grilli nega di aver attinto da uno di questi conti per pagare parte dell'appartamento a Roma. Quando sono venuto in Italia ho riportato i soldi indietro, indipendentemente dalla casa, in altri tempi. Ma il professore, racconta il Sole, lasciò Credit Suisse per diventare ragioniere dello Stato nel maggio 2002. E al Sole 24 Ore risulta che il denaro con cui è stato pagato l'acconto sull'appartamento partì originariamente da un conto dell'isola di Jersey nel febbraio 2004, cioè quasi due anni dopo. Inoltre, documenti in nostro possesso indicano che l'allora ragioniere dello Stato, garante ultimo dei conti del paese, ha fatto in modo che quasi metà dei lavori di ristrutturazione di quell'appartamento fosse pagata in contanti e senza imposizione di IVA. Insomma, questo è l'inizio dell'inchiesta, che è lunghissima, un'intera pagina, si addentra poi in dettagli, in questioni, l'uso per esempio chiave, una questione chiave è quello dell'uso dei contanti, su questo ci sono d'aiuto altri documenti, scrive Claudio Gatti. Il primo elenca i bonifici effettuati per lavorazioni eseguite, il secondo bonifici effettuati per pagamento forniture, il terzo i pagamenti effettuati. In questi fogli elencate 22 date a partire dall'11 ottobre 2004 fino al 23 novembre 2005, in totale si arriva a 297.500 euro registrati come contanti nel foglio del riepilogo. Questa è l'accusa: Grilli e il labirinto delle spese per la casa, conti esteri e contanti per la ristrutturazione. La replica del ministro, che già in passato era intervenuto su questa vicenda, tutto regolare, trasparente al fisco, ma certo questa inchiesta farà discutere, riguarda il ministro dell'economia Vittorio Grilli. Lasciando il Sole 24 Ore, ieri il Secolo XIX parlava di questa vicenda dei dossier segreti trovati a casa dell'ex ministro Scajola, e udite, dobbiamo aggiornare una lunga lista, cari ascoltatori, la lista degli a sua insaputa, nata proprio con Scajola, con la casa del Colosseo, la casa a mia insaputa, lo sapete, eccolo qui, che cosa bisogna aggiornare a sua insaputa? L'elenco di questi dossier, perché Scajola, racconta il Corriere della Sera con Erika Della Casa, a pagina 25, dice questo: tenetevi forte, mani sul volante, non so cosa devo aspettarmi, non so neppure esattamente cosa siano quei documenti. Eccolo lì, i dossier segreti a sua insaputa trovati in casa, non so neppure che cosa contengano. Sono autorizzato ad averli. Quando uno fa gli scatoloni dal ministero e mette tutto dentro, lo fanno gli addetti alla segreteria, gli uscieri, insomma, quindi dà la colpa anche agli uscieri, agli addetti alla segreteria. E poi cosa crede? Quando personalità come Andreotti e Ottaviani scrivono le loro memorie, si riferiscono bene a documenti che si sono tenuti in copia per scopi storici. Anche i documenti in mio possesso sono in copia, sono autorizzato a detenerli. Questa vicenda, come le altre, finirà in una bolla di sapone. Intanto a Imperia ci sono le elezioni comunali. Non so cos'altro devo aspettarmi, non so neppure cosa siano esattamente quei documenti sequestrati in casa. Questa è la difesa di Scajola, insomma, documenti con contenuto a mia insaputa. Di fatto potremmo tradurla così. Anche il Secolo torna su questa vicenda ieri lanciata dal Quotidiano di Genova. Dossier sequestrati, non so nemmeno cosa ci sia dentro. Questo è il titolo. Beh, c'è sicuramente tra gli atti, oltre alcune inchieste, alcuni dossier su un avversario politico di Scajola, come raccontava ieri il Secolo, vale a dire Minasso, e l'uso in passato della cocaina, almeno in questo dossier dei servizi segreti c'è scritto. Secondo Repubblica c'è anche un dossier sull'amante di Berlusconi, questo è il titolo di Repubblica, pagina 20, Marco Preve. Racconta la storia di Virginia Saint-Just di Teulada, 36 anni, ex annunciatrice della RAI, e della sua relazione con Silvio Berlusconi, che divenne nota a seguito delle denunce dell'ex marito di Virginia Saint-Just, Federico Armati, agente dei servizi segreti del SISD. E questo dossier, secondo Repubblica, era presente nei dossier che sono stati sequestrati a Scajola, ma Scajola non lo sa che quali dossier avesse in casa, e quindi magari leggendo i giornali può sapere se questi dossier a sua insaputa diventano dossier a sua saputa. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:33 minuti avete assistito al discorso di Giorgio Napolitano, che ieri si è insediato e ha giurato per succedere a se stesso, prima volta nella storia della Repubblica, come presidente, come capo dello Stato inquilino al Quirinale. Beh, si può riassumere dalla lettura dei giornali, se non avete assistito a quel discorso, così. Gli diceva: siete sordi voi dei partiti, voi parlamentari, siete stati inconcludenti, siete stati incapaci di fare qualunque cosa, e quelli lì lo applaudivano. Come dire, una scena alquanto surreale. Tutti usano questa metafora, la frustata, la sferzata, il monito, il duro attacco di Napolitano ai partiti, e loro lo applaudivano. Più Napolitano diceva che erano stati incapaci, inconcludenti, sordi, non hanno fatto le riforme, non parliamo della riforma elettorale per la quale Napolitano si era speso con vari appelli, e più quelli applaudivano. Napolitano sferza i partiti, intese ampie, questo è il titolo del Sole 24 Ore a pagina 3, con il racconto racconto di Lina Palmerini, 30 applausi, stand innovation, chi grida grazie, chi bravo, un'accoglienza eccezionale per una seconda volta di un capo dello Stato che fa il suo ingresso all'aula della Camera raccogliendo un entusiasmo che mai si era visto, ma è l'ennesima fotografia di una politica senza riferimenti. Giorgio Napolitano parla di omissioni, guasti, chiusure, tatticismi sterili, inconcludenze, gli applausi quasi crescono in un gesto liberatorio e catartico. E questo non sfugge al capo dello Stato, che non cede alla lusinga e dice: la protesta verso i partiti e la politica sono state alimentate da campagne demolitorie, ma il vostro applauso, attenzione, non induca ad alcuna autoindulgenza. E ancora di più applausi. Una scena che per certi versi sembrava quasi incredibile, ma il dato di fatto è questo, come racconta Mario Aiello in prima pagina del Messaggero sotto il titolo Festa e Cori, quel paradosso dei flagellati. Racconta e scrive Aiello: il presidente cincinnato ma anche un po' De Gaulle nell'aula dei flagellati. Napolitano versione bis li rimprovera con vigore, mettendoli davanti a irresponsabilità, omissioni, chiusure, indecisioni, insensatezze commesse dagli inquilini del palazzo, e loro si cospargono il capo di cenere, lo applaudono in una sorta di collettiva gioia da flagellazione, fanno il mea culpa che si traduce in una, due, cinque, dieci stand innovation trasversali. Ogni volta che lui li sferza, chi applaude di più? Forse quelli del PDL, zitti, muti e platealmente anti i grillini. Ma quando il cincinnato Giorgio stigmatizza la pretesa di fare governi senza fiducia, si può notare un deputato democrat in piedi e più in piedi degli altri, il quale si spella le mani. È Pierluigi Bersani, proprio lui, che fino all'altro giorno inseguiva leghisti e 5 Stelle sperando in un governo di minoranza o in un esecutivo della non sfiducia. Il super presidente, eccolo, in versione leggermente De Gaulle, anche se Napolitano ribadisce che la nostra Repubblica parlamentare definisce i presenti responsabili del nulla che la politica è riuscita a produrre, buone a niente, incapaci a tutto, per dirla volgarmente. E l'intero emiciclo, invece di offendersi, prorompe in grida di gioia: grazie presidente! Cercano la soluzione, ma prima devono passare dalla contrizione. Vogliono essere salvati, anche se Napolitano confessa di non avere né illusioni né pretese salvifiche, ma niente in politica è gratis. E loro si sottopongono docilmente a questa legge, celebrata in un coro di sì, quando lui con garbo, ma anche con la nettezza che gli appartengono, dice loro che tra veti incrociati e vicendevoli faziosità hanno bloccato l'Italia. Insomma, è la nemesi, racconta Aiello. Davvero paradossale, anche Mattia Feltri in un articolo tra Il Colore, La Cronaca, di quello che è successo ieri al Parlamento, a pagina 5, sotto il titolo «I parlamentari presi a ceffoni rispondono con gli applausi, ovazioni dall'emiciclo, solo i grillini restano marmorei o quasi», a pagina 5 della Stampa. Quasi, perché in realtà, fa sapere Il Corriere a pagina 6, alcuni grillini hanno applaudito. Questo nel linguaggio grillino insomma è già un significato. Questi grillini sarebbero Marta Grande, Bocchino, Mucci, che è del Movimento 5 Stelle, ovviamente omonimo dell'Italo Bocchino, Mucci, Duva e il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Tra l'altro il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio sarà il nostro ospite alle 8.45 più tardi. Prima avremo con noi il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Speranza, e il senatore Mantovani, il Popolo della Libertà. Non avevo ricordato gli ospiti di prima. Insomma, questa scena un pochino surreale effettivamente, degli applausi alla persona che più li stava criticando, è stata colta anche da Stefano Rodotà, che fa un'intervista al Manifesto nella quale si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa per tutta questa vicenda che lo ha visto coinvolto, candidato ma non eletto al Quirinale. Intervistato da Daniela Preziosi, Dice Rodotà: un'intesa con l'autore dello sfascio, questo è il titolo dell'intervista, cioè parla del possibile intesa con Berlusconi, e dice Rodotà: non posso mettere tra parentesi il fatto che la larga intesa si fa col responsabile dello sfascio e della regressione culturale e politica di questo paese. si riferisce a Berlusconi. Si faranno interventi economici, si utilizzeranno i modestissimi documenti dei saggi, ma non potrà essere affrontata nessuna delle questioni che possono restituire alla politica, al Parlamento, una qualità di interlocutore della società. Larghe intese, il protagonista è Berlusconi. E infatti, dice Rodotà, di tutta questa vicenda è uscito vittorioso lui. E poi riguardo alla scena di ieri, racconta Rodotà, la prima osservazione è una conferma: l'irresponsabilità o l'interesse dei partiti hanno trascinato il presidente nella crisi che loro stessi hanno creato, ha messo il presidente con le spalle al muro. Siamo incapaci, pensaci tu. Un passaggio di enorme gravità politica. La seconda considerazione: Napolitano è stato indotto a un discorso da presidente del Consiglio. E poi c'è una terza: sono scandalizzato. Mentre Napolitano diceva dell'irresponsabilità dei partiti, quelli applaudivano invece di stare zitti e vergognarsi. Hanno perso la testa, così dice Rodotà. Insomma, questa Rodotà sul manifesto. Ora, allora, chi ci sarà, e questo è il prossimo passo, come presidente del Consiglio? Come presidente del Consiglio, i nomi che più sono gettonati sui giornali sono Giuliano Amato, e questo è una conferma, insomma, Giuliano Amato circola da un paio di giorni, ma c'è il nome che spunta, che è spuntato come un fungo porcino nella notte, è quello di Matteo Renzi, e viene gettonata questa ipotesi sui giornali. È vero che ieri Renzi è andato dalla Gruber e ha detto no, non è in campo questa possibilità. In realtà sui giornali raccontano che ci sarebbe una strategia. Allora partiamo da Amato, Libero e categorico: almeno ci risparmi Amato, cioè l'appello è a Giorgio Napolitano, il presidente domatore, ormai è definito così, c'è questa ritratto di Napolitano in prima pagina di Libero con la frusta, no? Il presidente il domatore, il presidente domatore efficace nel bacchettare Bersani e compagni, ci risparmi almeno Giuliano Amato. Questo è l'appello di Maurizio Belpietro, il direttore di Libero. Però Amato rimane la proposta in campo più gettonata, anche secondo l'articolo di Antonella Baccaro a pagina 9 del Corriere della Sera. I punti fermi irrinunciabili Napolitano li ha indicati ieri, scrive Baccaro. Si ripartirà dai 10 saggi, quello che hanno proposto, le riforme istituzionali, un piano per uscire dalla recessione, combattere la disoccupazione, riagganciare la crescita di un'ottica europea. Nel ribadirlo, il presidente ha fatto capire che in qualunque modo vada a comporsi l'organigramma del governo, le cose da fare sono quelle. Ebbene, riguardo al governo, la proposta e un personaggio come Giuliano Amato rimane in pole position insieme anche a Enrico Letta, ma c'è appunto questa... è spuntata l'idea di Matteo Renzi. Ieri a Piazza Pulita Matteo Orfini, responsabile della cosiddetta corrente dei giovani turchi all'interno del Partito Democratico, ha detto: nella direzione del partito proporrò Matteo Renzi alla presidenza del Consiglio. E allora, se Giuliano Amato in questo momento in maniera silente aspetta, anche se il Messaggero a pagina 5 con Alberto Gentili ne raccoglie alcuni umori sondando alcune persone che sono a fianco a lui, e non sono umori molto ottimistici, perché questa frase attribuita a Giuliano Amato ieri dal Messaggero: non so se sarà possibile mettere assieme un governo, e poi se ci si riuscisse quanto durerebbe, i partiti hanno perso la capacità di direzione dei propri parlamentari, basta un tweet per far cambiare linea politica. Questo è Giuliano Amato preoccupato, la frase attribuita a lui attraverso alcuni amici che insomma ne hanno raccolto il pensiero, questo secondo il Messaggero. Comunque, se Amato è preoccupato, Matteo Renzi parrebbe pronto. Questo al di là delle dichiarazioni ufficiali che può dare, magari in interviste televisive. Anche per l'Unità, pagina 3, per il premier tra Amato e Letta spunta Renzi. E secondo il Corriere c'è un piano, il piano sarebbe proprio quello, la strategia di Orfini, che oggi nella riunione decisiva del Partito Democratico, la direzione, prima delle consultazioni, oggi pomeriggio credo alle 17, raccontano i giornali, Maria Teresa Meli racconta sul Corriere, Orfini proporrà proprio questo, Renzi premier, e ovviamente l'ostracismo è dei dirigenti storici, Rosi Bindi per esempio, che tentava di bloccare già la strada di Enrico Letta, e con il sindaco di Firenze notoriamente ha più di un problema. Ma il piano è quello di appunto mandare avanti i cosiddetti giovani turchi che lancino la proposta a Renzi all'interno del partito. Su Repubblica, che ieri intervistava Matteo Renzi, ci sono ancora più dettagli. Goffredo De Marchis, il sindaco è pronto, ma lo chieda il PD. Lo slogan delle primarie era adesso, racconta Goffredo De Marchis, quello nuovo è immediatamente. Matteo Renzi lavora per avere da Giorgio Napolitano l'incarico di formare il governo delle larghe intese, così è certa Repubblica. Ieri pomeriggio Renzi ha parlato col leader dei giovani turchi, Matteo Orfini, e in direzione gli ha detto: Orfini, noi proponiamo che il PD faccia il tuo nome alle consultazioni, se governissimo deve essere facciamolo guidare a un uomo del PD, l'unico modo per salvarlo è questo. È ovviamente un retroscena. Oggi ci sarà la resa dei conti. Franceschini e Letta ieri già si sono schierati con Matteo Renzi, secondo Repubblica. Renzi avrebbe messo in campo un patto con Massimo D'Alema, anzi, scrive Repubblica, D'Alema ha stretto un patto di ferro col sindaco di Firenze. Significa che le sue mosse avrebbero la strada spianata di Massimo D'Alema. E insomma, sono rumors. Beh, attenderemo oggi pomeriggio, la giornata è decisiva, ma davvero sarebbe una svolta clamorosa quella di proporre e mandare avanti il nome di Matteo Renzi premier. Se fosse così, io dico, vedete come incredibilmente in 50 giorni, in 2 mesi, si possono stravolgere i tempi della politica. A volte i tempi della politica sono lenti, ma a volte nel giro di pochi giorni possono succedere cose clamorose, sempre che si voglia. Vedete, uno annuncia gli ospiti, appena l'ho annunciato, mi hanno detto Miriam Lucchetti, mi dice in redazione che è arrivato un sms del vicepresidente della Camera, Di Maio, che ci fa sapere che per un'improvvisa incombenza oggi non potrà essere il nostro ospite. Quindi, no, perché mi accusano sempre di non inviti mai Grillini, ma è esponente del Movimento 5 Stelle, vai a invitarli e poi riuscire ad averli in onda è un'impresa che ogni giorno ti fa sudare le classiche 7 camicie. Quando uno pensa poi di avercela fatta, arrivano le incombenze familiari all'ultimo momento. Vabbè, poco male. I microfoni, come sempre, qui a Radio 24 sono aperti per tutti coloro che hanno voglia e possono intervenire. Allora, dicevamo, oggi il Partito Democratico è verso la resa dei conti in direzione. E questo è il titolo di pagina 11 del Sole 24 Ore. Certo, però, in qualche modo stona, non è una cosa negativa, stona, ma complimenti, ma stona rispetto al momento nazionale la vittoria di Deborah Serracchiani, che invece ha vinto in Friuli, è diventata nuovo presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Stona, ripeto, non è nel senso che rispetto al partito in macerie sembra a Roma, a livello nazionale, e invece proprio in questo momento è arrivata un'affermazione di un esponente del Partito Democratico. E anzi, in una regione dove si è fatto registrare per esempio un dimezzamento dei voti al Movimento 5 Stelle rispetto a quello che è successo a livello nazionale, e insomma, e quindi ci sono, troverete interviste frasi e parole di Deborah Serracchiani, sentita anche nel nostro giornale radio, di un PD vincente, una Deborah Serracchiani che tra l'altro racconta il Corriere, sostenuta da Renzi, ecco insomma che torna in qualche modo tutti i collegamenti per cercare di spingere il sindaco di Firenze è il PD vincente. E tra l'altro c'è una frase che ho intercettato di Deborah Serracchiani in una delle interviste sui quotidiani, dice: perché ho vinto? Beh, perché nell'ultimo mese non ho ascoltato nessuno nel mio partito. Insomma, e voilà, ecco, a segnare la differenza rispetto a quello che succede a Roma. Movimento 5 Stelle, visto che prima l'ho citato, che è un po' in subbuglio per quello che è definito sul Fatto Quotidiano lo scilipoti da TV. Hanno uno scilipoti da TV, questo secondo il Fatto. Marino Mastrangeli ormai è quasi certo prossimo all'espulsione, quello che va andato da Barbara D'Urso, adesso va a tutte le trasmissioni televisive, per questa iperesposizione mediatica verrà cacciato, racconta Paola Zanca sul Fatto Quotidiano, deciderà per la verità il web, così anche Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, cacciamolo, è andato in TV dalla D'Urso, gogna in streaming per il senatore Grillino. Dai parlamentari è arrivato il sì all'espulsione di Mastrangeli, ora dovrà decidere il web. A proposito di Grillo, però, sono da segnalare due interviste interessanti. La prima al sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, intervistato da Michele Brambilla per La Stampa, pagina 10. E Pizzarotti fa un invito alla politica anche a Roma. Da sindaco dico meglio le larghe intese che nessun governo. Dunque un Pizzarotti che dice alla domanda precisa: meglio nessun governo o un governo di larghe intese? Le rispondo da sindaco: è indubbio che occorrano riforme, quelle che riguardano gli enti locali sono le più urgenti, perché i comuni sono l'ultimo baluardo a contatto con la gente. Occorre rivedere il patto di stabilità, ridurre la burocrazia. Ebbene, se per ottenere questo risultato è necessario che ci sia un governo, auspico che un governo venga fatto. Certo, sui nomi, oddio, i nomi che ho letto come candidati premier, dice Pizzarotti, se fanno Amato vuol dire che questa classe politica è totalmente impermeabile, ma spero in un colpo a sorpresa di Napolitano, un nome che possa unire, così dice Pizzarotti. Un'altra intervista interessante che vi segnalo riguarda un esponente del Movimento 5 Stelle, sul Secolo XIX, la pagina 7, Ilario Lombardo intervista l'onorevole Girolamo Pisano, che ieri non era in Parlamento, unico non presente al discorso di Napolitano, che si sfoga: che delusione, abbiamo fallito, non possiamo solo disfare, abbiamo perso col PD una chance irripetibile, dovevamo muoverci subito. 3 settimane fa avevo condiviso con tutti i parlamentari una proposta di governo, l'ho fatta anche avere a Casaleggio, ma lui mi ha risposto: noi non facciamo politica. E allora, che facciamo qui? Le pedine? Le pedine di un gioco però che forse non sappiamo giocare. Così l'onorevole Pisano del Movimento 5 Stelle. Vabbè, voglio concludere con questa notizia, cioè è tra la farsa, tra il dramma e lo spettacolo, perché la trovo sulla Gazzetta dello Sport, è una mezza pagina ma anche tra filetti altrove. Cosa ha combinato il giocatore del Lecce Ousmane Dramé? Dramé è andato con una prostituta, qua uno può dire insomma fatti suoi. La folle notte di Dramé, titolo della Gazzetta pagina 23, sembra una barzelletta: prende una bicicletta e va da una prostituta, si apparta a fare sesso, poi non avendo soldi gli dà l'iPhone, dice: guarda, ti do l'iPhone, che è stato 700 euro di valore commerciale, no? Poi, non contenta, deruba la prostituta, gli ruba la borsetta, scappa in bicicletta, viene inseguito da un trans. Lui, essendo un calciatore, atterra il trans con uno sgambetto, il trans si riprende e lo insegue e viene arrestato. Ma è una roba incredibile, la folle notte di Dramé. Ma cosa ha combinato? Dramma Dramé, va da una prostituta in bicicletta, poi atterra un trans, forse voleva fare un intervento in scivolata per il corner, e viene arrestato dopo aver derubato la prostituta. Vabbè, mi fermo qui perché sembra una barzelletta, ma è tutta raccontata con anche immagini, infografiche e disegni sulla Gazzetta dello Sport, ve la potete leggere. Queste sono le notizie che ti rimettono il sorriso sulle labbra, o no? Mattino, la politica nel tunnel. E allora eccoci, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Vogliamo ora approfondire quella che è la situazione politica al momento, dopo il giuramento di Giorgio Napolitano. Si pensava davvero nell'impazzimento della politica italiana di aver visto tutto quasi, ma secondo me il Parlamento sadomasochista ancora ci mancava. Ieri Napolitano, come era previsto, ha letteralmente preso a schiaffoni politicamente gli interlocutori che aveva davanti, definiti sordi, incapaci di risolvere la situazione, di fare delle riforme. E più il capo dello Stato inchiodava i partiti alle loro responsabilità, più i responsabili di quei partiti lo applaudivano. Bravo, sì, ancora. Insomma, tutti i giornali sottolineano questa cosa paradossale, no? Uno dava schiaffi e gli altri dicevano: sì, bravissimo, di più. Oggi Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano in prima pagina scrive nell'editoriale che gli ricordava tutto questo una scena di un film di Nanni Moretti in cui in questo film Sogni d'oro Nanni Moretti a un certo punto insulta il pubblico così e ne riceve questa risposta: pubblico di merda, pubblico di merda, pubblico di merda, pubblico di merda, pubblico di merda, pubblico di merda. Insomma, non siamo troppo irriverenti, non lo so, partiamo da qui, poi c'è da discutere di un governo ora da fare con due ipotesi, Giuliano Amato la prima sul campo e poi un'ipotesi che si profila abbastanza clamorosa, se ci fosse uno sviluppo clamoroso, Matteo Renzi, possibile premier di un governo di larghe intese. Andiamo con ordine, intanto voglio salutare il senatore Mario Mantovani del Popolo della Libertà, buongiorno e benvenuto senatore. Buongiorno a lei. Non sono stato troppo irriverente con quel film di Nanni Moretti, ma un po' la scena era così, era un po' paradossale, cioè questo che vi pigliava diciamo metaforicamente a schiaffoni e voi a dire bravo, bravo, grazie di più Presidente. Insomma, devo dire che ne ha avuto per tutti, insomma, perciò in particolare ha richiamato alcuni punti fondamentali, richiamando in particolare parte di Grillo, che insomma mi pare che siano stati quelli che hanno avuto la reazione maggiore insomma in termini di rispetto della democrazia, richiamando alcune questioni del Popolo della Libertà e altre del Partito Democratico, quindi io sono convinto che abbia fatto un'azione adeguata per tutti, quindi gli applausi arrivavano in parte da alcuni archi del Parlamento rispetto ad altri con particolare intensità. Sì, ma molti italiani si chiedono cosa c'era da applaudire Mantovani, cioè vi stava dicendo che siete stati incapaci, voi come classe politica, cioè, voi incapaci di fare le riforme, la legge elettorale, sordi, non pensate con questi applausi di indurre all'autoindulgenza, cioè ve la cantate, ve la suonate e voi di più ad applaudirlo ancora di più, cioè come si può leggere questa cosa? Io credo che sia stato un intervento di alto valore morale, sociale, culturale e istituzionale. Probabilmente è un richiamo in generale alla politica che credo abbia fatto bene ai politici italiani e io credo all'intera nazione, anche perché questo richiamo, come giustamente dice lei, era rivolto in parte anche agli italiani, che è quello di imparare a votare, di imparare a scegliere, di imparare dice addirittura, dice che Napolitano ce l'avesse anche con i cittadini, che colpa no, sulle modalità di voto, il richiamo alla legge elettorale, il richiamo al rispetto delle regole istituzionali. Richiama la legge elettorale, mi scusi, ce l'aveva con voi, richiama la legge elettorale, no? Sì, sicuramente, questo il fatto di non essere riusciti a sciogliere il nodo della questione della legge elettorale per non aver trovato l'intesa, insomma io credo che un richiamo alla politica in generale sia stato utile. Sì, il richiamo è stato utile, va bene. Insieme al senatore Mario Mantovani del Popolo della Libertà voglio salutare il capogruppo del PD alla Camera, Roberto Speranza, buongiorno. Buongiorno onorevole Speranza, eccoci qua. Buongiorno. Allora, si parlava, nella mia introduzione ho detto di questo Parlamento masochista, non so, più Napolitano vi inchiodava le vostre responsabilità e più partivano applausi da parte della classe politica, a parte del Movimento 5 Stelle, ci sono stati solo credo 4-5, raccontano i giornali, gli altri marmorei imperterriti a non applaudire. Lei che cosa ci legge in questo richiamo e in questi applausi che la politica, che voi della politica facevate a un presidente che vi stava brutalmente facendo delle reprimende durissime? Ma guardi, io non leggerei questi richiami legati solo al breve termine. Io penso che ci sia un punto molto più profondo della credibilità della politica e delle istituzioni negli ultimi anni e mi pare che il monito di Napolitano non vada letto, diciamo, dentro una crisi congiunturale, per quanto grave ed importante, ma più in generale. Cioè quello che Napolitano ci dice, che io condivido, è che se la politica ha una difficoltà in questa stagione ad avere una credibilità vera nei confronti dei cittadini è perché troppi errori sono stati commessi nel passato. Quindi io mi auguro che a partire da questo intervento, che nel fondo io penso vada assolutamente condiviso, noi dobbiamo, diciamo, aprire una strada diversa, una stagione diversa. e sono convinto che il Partito Democratico saprà essere pronto rispetto a questo obiettivo. Riguardo a questo, vediamo appunto che cosa succede da oggi ai prossimi giorni. Sui giornali, l'ho letto nella rassegna stampa, si parla di questo possibile governo, consultazioni lampo. Lo chiedo intanto a lei, Speranza, perché se non sbaglio farà parte della delegazione che andrà poi a parlare alle consultazioni con il Capo dello Stato, no? Oggi ci sarà una direzione importante all'interno del partito. Intanto le chiedo subito l'ipotesi di Matteo Renzi, che viene raccontata a tutti i giornali. Ieri Orfini ha detto: proporrò al partito Matteo Renzi. È un'ipotesi in campo oppure è un'ipotesi da fantapolitica? Guardi, intanto Matteo Renzi è una personalità di primissimo piano del PD e quindi trova senz'altro, diciamo, una assoluta sintonia con il gruppo dirigente del Partito Democratico. Dopodiché mi faccia dire con molta chiarezza che non è corretto che noi, prima di andare alle consultazioni, iniziamo a ragionare di nomi, sinceramente. La competenza è tutta del Presidente della Repubblica, tra l'altro in un passaggio difficile. Noi non siamo ancora, diciamo, andati alle consultazioni. Fare una discussione sui nomi senza interloquire in alcun modo col Presidente della Repubblica non mi sembra il modo migliore per ragionare. Questo no, però mi scusi, voi all'interno del partito è un nome che incontra senz'altro, diciamo, il favore del Partito Democratico, è un nostro dirigente, è un nostro, diciamo, sindaco, ha tutte le qualità, per cui io non sinceramente non aprirei ancora una discussione sul nome senza aver prima incrociato, diciamo, l'interlocuzione formale col Capo dello Stato. Però mi scusi, ho due riflessioni da fare. La prima è che Matteo Renzi incroci diciamo, l'interesse e anche il favore della dirigenza del partito sembra una cosa che può far sobbalzare qualcuno sulla sedia. Ma guardi, come si dice, Renzi rottamatore? È un racconto che spesso noi incrociamo. Renzi è un nostro sindaco, è un nostro, diciamo, dirigente di primissima linea. E ha partecipato alle primarie, è stato votato da 1 milione di italiani, e poi è evidente che ci sono posizioni politiche diverse, è un dibattito aperto, ma rispetto, diciamo, a Renzi non potrà in alcun modo essere dal PD che arrivi, diciamo, un ostracismo, un veto. Dopodiché ribadisco, detto questo, io penso che sia scorretto sul piano formale che chi deve in qualche modo incontrare nelle prossime ore il Presidente della Repubblica per ipotizzi, diciamo, dei nomi, sì, questo capito. Ipotizzi dei nomi senza rispettare, però, fino in fondo le prerogative che sono del Presidente, certo, della Repubblica. Però questa era la seconda considerazione. Quindi poi come capogruppo, non è chiaro, è chiaro. Che dovrà rappresentare il PD, sarei molto cauto, diciamo, nell'esprimere. Questo sì, però onorevole Speranza, poi vorrei andare un attimo da Mantovani. La seconda considerazione che volevo fare è questo: certo, è prerogativa del Capo dello Stato scegliere e incaricare una persona per fare Presidente del Consiglio, ma un partito discute e andrete al Quirinale con delle proposte, immagino. Siccome Matteo Orfini, dirigente del PD, ha detto oggi pomeriggio presenterò la nomina di Renzi al partito, questa è un'ipotesi di cui si sta discutendo all'interno del partito. No. Guardi, Orfini ha fatto, io penso, un intervento che va in questa direzione e lo rispetto nella maniera più assoluta e ribadisco, non c'è un problema di merito su Renzi. Io rappresento tutti i parlamentari del PD e quindi, diciamo, ho l'obbligo di una cautela anche formale nei confronti delle prerogative del Capo dello Stato. Dopodiché ribadisco, Renzi è una figura di primo piano, ha sicuramente, diciamo, sintonia con l'indirizzo che noi vogliamo costruire. Poi guardi, io lo ammetterei in questi termini. Ieri c'è stato un richiamo molto forte da parte del Capo dello Stato, che però ha detto una cosa: non partiamo dalle formule, di formule ne sono state fatte tante, partiamo dalla necessità di risolvere i problemi del Paese. Sì. Io penso che questo sia il modo di approcciare la discussione delle prossime ore, in modo esatto. Cioè, se partissimo dalla necessità di dare una risposta alle famiglie in difficoltà, alle nostre imprese, penso al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, penso agli esodati, penso ad esempio a ridare energia e in qualche modo anche sostegno alle nostre scuole che sono, diciamo, un patrimonio della nostra democrazia in assoluta difficoltà. Cioè, partire dai problemi concreti del Paese. Se partiamo da lì è molto più facile. Questo se sicuramente. Partiamo da formule politiciste nelle quali, diciamo, si sta lì a capire dove si mette il bilancino, io penso che ci si mette su un terreno che non è quello auspicabile. Vorrei mi fa piacere perché ieri è stato il Capo dello Stato in un passaggio molto chiaro a dire di formule, a ribadire questa cosa, troppo, certo. Parliamo dei problemi del Paese. Allora, Allora, prima della, dall'IPD farò la tua prima della, della, della pubblicità e poi ripartiamo, senatore Mantovani, al di là dei nomi, usciamo, o se vuole dica anche la sua sulla questione Renzi Amato, perché sono i nomi, è vero che voglio dire, e tutti ne parlano, i giornali ne parlano, è anche un po' singolare che non se ne possa parlare noi, anche qui con voi esponenti politici, capisco la cautela dell'onorevole Speranza. Che ne pensa lei dei nomi in campo e che cosa chiedete voi al di là dei nomi del governo, dal governo che verrà? Ma guardi, al di là dei nomi che credo spettino almeno in prima battuta al Partito Democratico che ha vinto le elezioni, e quindi io sono convinto che debba essere un nome indicato sicuramente dal Partito Democratico, noi siamo pronti come da sempre, diciamo da oltre 50 giorni siamo senza governo, abbiamo dato la nostra disponibilità a comporre un governo per intervenire immediatamente per i problemi del Paese, lo diciamo da un paio di mesi circa, noi siamo pronti ad appoggiare un Paese che metta al primo posto i problemi stessi del Paese, problemi veri, chiediamo l'abolizione e il rimborso dell'IMU, nessun aumento dell'IVA, nessuna patrimoniale da applicare alle famiglie, la riduzione fino all'eliminazione dell'IRAP entro i 5 anni, togliere in particolare l'aggravio che c'è per le assunzioni dei giovani, questi sono per il momento i nostri problemi. Insomma, affrontare i problemi. Affrontare immediatamente, ma questo lo diciamo da tempo. Ma infatti, ma verrebbe da dire. Verrebbe a sostenere governi con persone indicate dal Partito Democratico. No, ma certo, questo sì, verrebbe da dire, però senatore, ma riprendiamo da qui tra un attimo dopo la pubblicità, ma insomma, si dice sempre risolvere i problemi, ma perché non sono stati risolti? Che poi è la stessa cosa che Napolitano ieri ha detto, sferzando un Parlamento che rispondeva con grandi applausi. Bravo Presidente, ancora di più, e quello gli diceva, siete stati sordi, incapaci di risolvere le cose. 24 mattino. Eccoci, le 8:35 minuti. Allora, 800 24 00 24, siamo col senatore Mario Mantovani del Popolo della Libertà, con l'onorevole Roberto Speranza che è capogruppo alla Camera del Partito Democratico. Speranza, so che lei ci deve lasciare, le faccio ancora un paio di domande che sono relative a Pierluigi Bersani. Intanto, lei l'ha sentito in questi giorni, perché è un po' sparito proprio anche fisicamente dalla scena. Speranza, come sta? Guardi, siamo stati seduti accanto durante il discorso del Presidente della Repubblica e anche durante lo scrutinio in cui il Presidente è stato eletto. Bersani è assolutamente sereno, si è assunto la responsabilità per conto di tutti, come generosamente ha sempre fatto in questi anni, e penso che oggi alla direzione nazionale vorrà comunicare anche il suo punto di vista su quello che è accaduto. Secondo lei lo sente ancora come il segretario del Partito Democratico? Ma guardi, Bersani si è dimesso da segretario, dopodiché non è che è arrivato a fare il leader perché qualcuno si è chiuso in una stanza e ha deciso. Bersani per due volte, nel 2009 e nel 2012, ha fatto delle primarie in cui hanno votato 3 milioni di cittadini e in entrambe le occasioni ha vinto con circa 2 milioni di voti. Per cui è chiaro che per noi è un leader che ci ha guidato, che ha rappresentato, diciamo, il Partito Democratico in primissimo piano, io penso anche facendo assolutamente bene in questi anni. È una persona generosissima e in questo passaggio difficile ha deciso di assumersi la responsabilità per conto di tutti. Certo, noi lo dobbiamo ammettere, i problemi che ci sono stati seri. È facile scaricare tutto su Bersani quando in tanti non hanno fatto fino in fondo la propria parte, però un capo è un capo vero se a un certo punto si assume fino in fondo la responsabilità. Quindi secondo lei le mie ultime due domande sono queste: bisogna, come si dice in questi casi, voltare pagina, cioè prendere atto che politicamente è un leader del partito, rimarrà una persona importante del partito, ma non può più come dire fare il segretario dello stesso partito. Ma guardi, Bersani ha voluto con le sue dimissioni dare uno shock al PD, perché per troppo tempo sono stati commessi errori e poi c'era sempre uno che pagava per conto di tutti. A questo punto Bersani dice con un atto molto chiaro che sono le dimissioni, io aiuto un processo di responsabilizzazione, oggi non c'è Bersani che fa il segretario in questo momento, ciascuno si assuma fino in fondo le proprie responsabilità, perché è troppo facile immaginare un giochino nel quale nessuno fa fino in fondo la sua parte, ma poi c'è sempre uno che passa e salda il conto. A chi straccia le tessere del PD lei che risponde? Li capisce? Io rispondo che tante di queste persone hanno ragione ad essere arrabbiate con noi, e noi sbaglieremmo se non comprendessimo fino in fondo la loro rabbia e la loro anche indignazione. Ma è del tutto evidente che oggi bisogna aprire una stagione diversa e che questo intervento di Giorgio Napolitano di ieri segna in qualche modo l'apertura di una stagione diversa, dentro la quale noi dobbiamo avere più responsabilità e provare con maggiore forza a mettere al centro i problemi degli italiani. Perché le persone sono arrabbiate con la politica? Io non penso che siano arrabbiate con la politica perché c'è una persona che fa il segretario o un'altra che fa il presidente. No, le persone sono arrabbiate con la politica perché non fate perché nulla. Perché non riusciamo a risolvere fino in fondo i problemi che ci sono sul tavolo, i problemi materiali, perché quando non si riesce ad arrivare a fine mese, quando le imprese non hanno ossigeno, quando diciamo le nostre istituzioni basilari della democrazia, penso alla scuola, all'università, non riescono diciamo più ad esprimere qualità perché non hanno le risorse minime per poter andare avanti, c'è un problema enorme, la politica se ne deve far carico. Appunto, in questa stagione bisogna partire da lì. Bisogna partire dal merito, bisogna partire dai grandi problemi dell'Italia. Speriamo, non so, che si faccia, perché sono tutti appelli, insomma, che è un po' singolare sentirli dire da lei come rappresentante di quella politica che dovrebbe farlo. Intanto però io la ringrazio per essere stato con noi, Roberto Speranza. Mi permetta di dirlo solo per un istante. Noi non siamo stati maggioranza negli ultimi anni in questo paese. Negli ultimi 5 anni noi siamo stati minoranza in Parlamento. Oggi per la prima volta siamo maggioranza e utilizzeremo, anche se relativa in una delle due Camere, e utilizzeremo assolutamente la nostra forza per provare a risolvere questi problemi. Va bene, la ringrazio, ovviamente buona giornata, con noi rimane il senatore Mario Mantovani. Senatore, le devo chiedere questo, poi torniamo sulla questione, c'è anche qualche ascoltatore ora, torniamo sulla questione governo. Perché è vero che Berlusconi va negli Stati Uniti, pronto a partire negli Stati Uniti? Ma non sono al corrente di questo. Ma così dicono i giornali, è pronto? No. Beh, non mi dica Berlusconi, lei lo conosce molto bene, io molto vicino a bene, Berlusconi. Però insomma in questi giorni è stato chiuso in parecchie occasioni a prendere le decisioni che sono state assunte. Mi pare che ha dimostrato ancora una volta grandissimo senso di responsabilità. Fin dal primo giorno abbiamo dichiarato la disponibilità ad occuparci dei problemi del paese, pur consapevoli che non avevamo vinto le elezioni. Mi pare che gli errori di Bersani insomma li siano stati pagati in un colpo solo, con le sue dimissioni insomma. Ma lei gongola di più per la disfatta del PD oppure le dispiace perché il paese in questo momento avrebbe bisogno anche di un Partito Democratico forte e ben compatto? Abbiamo bisogno di avere una maggioranza e un'opposizione che facciano il loro dovere. Purtroppo questo non è avvenuto fino in fondo. Devo dire che gli errori che ha fatto Bersani li ha pagati in maniera cara. Aver appoggiato, prima tentato l'accordo con Grillo, poi con Grillo che tende a sostituire la sinistra e il Partito Democratico, perché queste sono le persone che sono state elette da Grillo, quasi tutte di sinistra, non ha assoluta. Si immagini, noi eravamo disposti a sostenere un partito, un governo a guida di sinistra. Anche Bersani. Avessimo chiesto che la sinistra sostenesse un governo a guida Berlusconi, lei se lo immagina questo? No, effettivamente. Ha dimostrato, abbiamo appoggiato il presidente che hanno indicato loro Marini. Io ho scritto Marini sulla scheda, pur essendo del Popolo della Libertà. Ce lo può provare. Perché molti hanno fatto le foto, lei non ha fatto la foto. Io non faccio le foto perché intanto sono vietate, però io sono convinto che lo dimostrano i voti che sono stati espressi. Poi abbiamo sospeso le votazioni, poi insomma abbiamo dato. Prima hanno tentato di fare la pace con noi mostrando Marini, poi hanno tentato la guerra chiedendoci di votare Prodi, poi alla fine siamo arrivati a una soluzione di compromesso. Ma è chiaro, ma che ci siano stati i franchi tiratori o i traditori 101, tutti come ha chiamato Bersani, all'interno della sinistra, perché il PD è in una crisi profonda. E questo è abbastanza evidente e vedremo però come non ne può pagare il paese, capisce? Perché io credo che la prima cosa che bisogna fare è ridurre i costi della politica. Poi tra poco ci ritorno. Mantovani è il nostro senatore con pluri poltrone. Però fa risparmiare lo Stato. Non me la bruci. Tra poco lo ricordiamo perché lei si deve dimettere tra poco. Prima faccia dare qualche ascoltatore. Marco da Rimini, buongiorno. Buongiorno, io sento parlare queste persone, Mantovani, Speranza, un giovane vecchio, è un giovane in poche parole, perché dice delle cose veramente aberranti. Io ho 53 anni, ho vissuto l'età delle Brigate Rosse, avevo 18-19 anni, quindi moro in modo particolare. Ho lavorato in un'azienda grandissima della distribuzione italiana, della cooperativa italiana, Cooperativa Rossa, non faccio il nome per evidenti questioni pubblicitarie, ma io mi domando una cosa, ieri sera ho sentito la Pitti e sono uno, ho votato sempre a destra, ho votato pure Prodi per il cambiamento, ho votato, ma io l'ho sentito la Bindi ieri sera, ma ancora una volta questa persona che è stata messa a capogruppo in lista in Calabria, ma rendiamoci conto, sono ancora lì a dire, a difendere, a dire no, Letta al governo, ma insomma, io dirigo un'azienda che fa 50 milioni di euro di fatturato, parliamo di internazionalizzazione, parliamo di mercati esteri, globalizzazione eccetera, poi quando andiamo all'estero io vi invito ad andare ad una fiera estera per vedere come siamo messi rispetto agli altri paesi. Spagna si presenta il padiglione Spagna, Italia si presenta la provincia di Caltanissetta, ma insomma, ma vogliamo fare le cose? Dice, non siamo un paese unito, ma lei cos'ha contro la Bindi, che non può parlare, non può dire la sua? No, la Bindi può dire quello che vuole, però lei e la rispetto per profondamente, la rispetto, non può dire che al governo non ci deve andare eletto, non ci deve andare, ancora una volta difende le differenze, ma insomma c'è un'opportunità grandissima, le ripeto, io ho votato Grillo semplicemente per un cavallo di Troia, Grillo è morto, come utilizzando il suo tema, è morto, serve solamente per cambiare questa politica, serve. Adesso sia PD che PDL hanno una grossa opportunità, quello di fare le cose, non di sentire dire Mantovano o Speranza le cose che dicono, contrapporsi l'uno all'altro, fate le cose per riprendere per la verità sono qui a dire adesso, forse Mantovani e il PDL lo diceva dal primo giorno dopo le elezioni, il PD ha avuto un po' tutto un travaglio, ma poi adesso ci sono arrivati, sono qui a dire insomma, adesso mettiamoci lì come ci ha inchiodato Napolitano e risolviamo i problemi del paese. Certo, c'è da dire, per molti è l'inciucione, c'è qualche ascoltatore che pensa che sia così, dopo il traffico ne parliamo. Eccoci qui, Renato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno Milan. Allora, io volevo semplicemente dire questo, per 30 anni ho votato a sinistra, tutto quello che è passato in questi 30 anni, quindi Alberi, Guercio, eccetera, eccetera. L'ultima votazione l'ho dedicata a Grillo, quindi il mio è stato un voto di protesta, ma aggiungo anche un'altra cosa, essendo un terrone del sud, per protesta io ho avuto il coraggio di votare anche Lega. Sì. Proprio perché volevo che qualcosa cambiasse. Oggi io vorrei che ci fosse un governo di larghe intese, e pur avendo una tanta simpatia per Renzi, vorrei che venisse coinvolto Amato, perché è una persona che sicuramente è un ottimo mediatore. Non ha paura di quelli che dicono è l'emblema della casta, con le sue, in questo caso, le sue pensioni. Noi dobbiamo vivere il post Gettysburg, cioè quello che hanno vissuto gli americani e che noi ancora non ci vogliamo scrollare da addosso. Noi ancora abbiamo la dopo sinistra. La guerra civile siamo noi ci abbiamo ancora la sinistra, visto come ho studiato la destra che combatte, ma la maggior parte degli italiani sono come me, vogliono il cambiamento, ci sono solo pochi facinorosi che come allo stadio rovinano le partite, i match, così rovinano questo paese. Lei vorrebbe Amato, uomo delle larghe intese, cioè, grazie Renato, stiamo a vedere. Amato è uno dei nomi più gettonati, ma questa ipotesi Renzi insomma non piace a nessuno, no, a meno ai nostri ascoltatori, no, molti via sms mi hanno detto di sì. Damiano da Foggia, Damiano, buongiorno. Buongiorno signor Milan. Eccoci. Niente, volevo dire, trovo singolare che l'onorevole Speranza parli di formule, alchimie varie, e ci hanno messo 60 giorni per capire che dovevano abbandonare appunto questa strada e badare un po' più alla sostanza. Io mi accodo un pochettino a quello che hanno detto gli altri due radioascoltatori, praticamente siamo abbastanza favorevoli a una larga intesa, mi pare di capire, pur di risolvere i problemi del paese. E dirò di più, Bersani purtroppo, se avesse messo a tacere il giorno dopo delle elezioni tutte le persone che l'hanno come dire mal consigliato, sarebbe diventato a questo punto il re d'Italia se avesse lui deciso subito di fare un'alleanza con Berlusconi. Ma però capisce Damiano, cioè l'alleanza con Berlusconi non è una cosa politicamente facile da far digerire anche all'elettorato del PD, cioè lei dice vediamo quello che siamo penso... arrivati come soluzione, come situazione attuale, quindi peggio di così forse, però Non è però adesso che è costretta ad accettarla, ormai Bersani non c'è più, però ormai che adesso il PD è costretta ad accettarla, ma ha provato, cioè in politica si fa, sì certo, però in politica non so, ma chiedo anche al senatore Mantovani, secondo lei Bersani in questo momento si sente come quello che dice, cioè, ho sbagliato a tener duro, oppure dire oh, ma uno in politica può anche fare delle scelte, poi se sbaglia le paga come le sta pagando, ma perché avrebbe dovuto digerire una cosa? Le dimissioni siano un segnale straordinario, insomma, di ammissione di un errore che è stato fatto. Ma perché è stato impallinato? Che siamo in un momento straordinario. Però, per senatore, è stato impallinato all'interno del partito. Fosse passato Prodi senza la fronda interna al partito, Bersani non si sarebbe, credo, dimesso. Prodi, presidente del Consiglio, e magari riusciva ancora a restare in gioco politicamente. Presidente della Repubblica. Sì, della Repubblica, certo. Sì. E magari riusciva a restare ancora in gioco come possibile premier. Sì, però, insomma, si sono imboccate troppe strade, una a favore, una contro, cioè ha fatto dei tentativi, giustamente come diceva il radioascoltatore, è stato mal consigliato, ha preso delle strade sbagliate in un momento straordinario, dove non si arriva a fine mese, dove chiudono 60.000 imprese all'anno, dove si sono aumentate le tasse all'inverosimile con il governo tecnico, andava assunto una decisione anche impopolare, che era quello che noi proponevamo. Questo è stato l'errore gravissimo che ha fatto Bersani. Senatore, però lei ne parla, molti ascoltatori stavi sms ci dicono, ne parla di questa cosa come se voi non foste stati al governo, a parte la parentesi del governo tecnico, cioè come siamo se stati al governo, come se il passato recente non contasse. Non abbiamo mai aumentato una tassa, abbiamo sempre tenuto in un momento di difficoltà internazionale. Io insisto su questa questione, perché non è che l'Italia sta vivendo un momento, noi eravamo prossimi a cadere come la Grecia, abbiamo tenuto in sicurezza i conti degli italiani in banca. Infatti è dovuto arrivare Monti per salvarci. Voglio dire, non è che siamo rimasti lì a tirar sera. Dicono è dovuto arrivare Monti, se no finivamo sì come la Grecia con voi. È arrivato Monti perché il senso di responsabilità ha fatto fare un passo indietro a Berlusconi, era un momento difficile, non avevamo più il consenso popolare, eccetera, eccetera. Quindi ecco anche qui un'altra prova di responsabilità. Bersani ha vinto le elezioni e cosa ha fatto? È andato a sbattere. Questo è il problema. Lei invece quando è che si dimette? Lei, ricordiamo, è senatore, poi è sindaco, ma questo non è incompatibile per legge. E si è dimesso poi da sindaco di Arconate. Sei sindaco, l'ultima volta c'è detto che si stava dimettendo. Io sono eletto dai miei cittadini, mica mi sono inventato, Io sono eletto quasi il 70% dei voti dei miei concittadini, viva la democrazia. Sì, cioè, ma certo, questa propaganda sempre che si fa sui giornali, gli incompatibili, quella, io sono eletto democraticamente. Sì, però dai miei ce l'ha detto lei l'altra volta che si stava dimettendo, non è che certo, l'abbiamo obbligato. Mi sto dimettendo, ci sono dei tempi tecnici per dimettersi, per cui poi non è che lascio il comune domani mattina come si dopo 12 anni, io sono sindaco da 12 d'accordo anni, rispettato e amato dai miei concittadini, poi c'è la propaganda giornalistica, fa dica quello che vuole, la propaganda dire ai miei cittadini che sono dispiaciuti. Lei anche vicepresidente della regione Lombardia. Lo sono diventato da pochi giorni. Perché mi sono candidato? Perché sono non il si è dimesso degli eletti in Lombardia di tutti i partiti? Ci sarà una ragione se gli elettori hanno votato con la preferenza. Però perché Vendola si è dimesso, Cota si è dimesso e lei non si è dimesso dal Senato? Ma perché loro sono presidenti delle regioni, ha capito? E lei quindi hanno dovuto dimettersi immediatamente. Io ho dei tempi tecnici, adesso mi dimetterò sia dal Senato che, ahimè, e mi dispiace molto, da sindaco della mia città. Però un po' paradossale, perché lei ha eletto il Presidente della Repubblica in una situazione di violazione della Costituzione. Beh, adesso non esageriamo, insomma, non è una violazione. La Costituzione dice che le cariche non sono compatibili e poi ci sono dei tempi tecnici per lasciare. Io ho utilizzato questi tempi previsti per legge, peraltro, quindi nulla contro la legge. Non ho avuto nessuna indennità dallo Stato fuori misura, anzi il mio comune da 12 anni risparmia e non mi paga, giustamente, cioè voglio dire, io credo di aver dato anche retta a quello che i cittadini hanno scelto, no? Sono stato votato, sono stato eletto. Sì, ma questo lei non di dove è dubbio. Milano? Dove abita? Io a Milano. Ecco, lei si candidi sindaco della città. No, per carità, prendo 3 voti. Si faccia eleggere, guardi, anche solo col 51%. Ho 4 familiari, prendo 3 voti. No? Se ho 4 familiari, prenderei 3 voti. Viva la democrazia, viva la democrazia. Quando scelgono i cittadini, il consenso popolare. Sì, io però si dice anche il rinnovamento, Mantovani. Di avere questo consenso popolare. Ma sì, però lei è stato eletto, ma guardi che se lei lascia il posto a un'altra persona, c'è anche lei ha tanti impegni e lascia spazio anche a un giovane di emergere. Io li assolvo, perché se la gente mi butta, una ragione ci sarà, mica votano a caso. Ah, il mio nome l'hanno dovuto scrivere, Ha scritto, non è che Mario sono Mantovani, una lista di nominati. Io sono eletto democraticamente dal mio popolo. Ce la facciamo, Giovanna da Bologna, sei in 30 secondi a dire la sua, Giovanna, buongiorno. Buongiorno, ma io ho 2 considerazioni velocissime. Una, l'ho amata per tutta la vita, basta, non ne possiamo più. Sì. 2, i miei amici dei democratici, per cui ho votato una vita intera, ma non li voterò mai più e strapperò la tessera, anzi già strappata. Non hanno neanche capito che la Serracchiano in Friuli ha vinto per la persona, non per il partito. Dicendo e terzo, ho vinto. Ed ultimo, smettiamola, facciamo un atto almeno di onestà e smettiamola di dire che Bersani ha vinto le primarie, perché Bersani ha vinto solo ed unicamente perché il partito con la T maiuscola si è schierato. Vabbè, questo però è legittimo. Giovanna, però ha vinto. La Serracchiani ha vinto in Friuli, ha detto ho vinto perché nell'ultimo mese non ho sentito nessuno del mio partito. Questa la consegno alla storia. Grazie a Mario Mantovani. Ci troviamo domattina alle 6.30. 24 mattino.